Adesso basta, lasciami vivere lontano da te. Se una cosa, ora sono molto più sereno, lontano da quel veleno, ora che non ti sento. E quando scrivo, lo sai, neanche che ti penso. Ho perso troppo tempo per starti vicino. Quanti sacrifici per regalarti giorni felici. Per te ho perso anche gli amici. Ora fuori dai coglioni, amo solo questi suoni, capaci di regalarmi forti emozioni. Lo so, hai sbagliato, ma le cose restano tra noi e nessun altro. Non hai capito un cazzo, tu cancellati il mio numero e non cercarmi più. Per te non esisto più, sei solo una puttana, un ricordo da dimenticare. Persona al mare, lontano da me, perché ora posso solo odiare. Inizio a respirare, ora spezzo queste catene. Ancora un'ora con te mi taglio le vene. Ancora un'ora con te sento le sirene. Ora spezzo queste catene. Ancora un'ora con te mi taglio le vene. Ancora un'ora con te sento le sirene. Vai, vai, colpa tua, penso che tutte le donne siano puttane. Ho perso l'orgoglio, ho perso il carattere, che cosa mi rimane? Cazzo, ti dedico ancora una canzone. Il tempo passato con te è stata solo una frustrazione. Se mi guardi negli occhi, leggi l'odio che ho per quei giorni vuoti. L'amore con te era solo una prigione, nessuna emozione. Ora spezzo queste catene. Ancora un'ora con te mi taglio le vene. Ancora un'ora con te sento le sirene. Ora spezzo queste catene. Ancora un'ora con te mi taglio le vene. Ancora un'ora con te sento le sirene.